léegi lippoon amoon na fi daana kii nag benn jégle woon ci këram day def saa yu suba tere yee ci kaw terrasse bi ay balal maa jàpp ko muy bàyyee ko rey ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ñu engagé benn njaago bu wër a peinture façade bi, may gisu ko mu ci échelam ci ginnaaw. Jég baa ngi waaxu fuddu dem bu ba mu neex ko mu jël escalier bëgg a wàccari wàcc ne ko hey, mu gestu xol ko mu ne ko ba pare nga laabu.